Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alessandro Benvenuti legge Metello di Vasco Pratolini. Libero nacque chi avevano lasciato San Frediano e abitavano due stanze e cucina nel quartiere di Santa Croce in via dell'Ulivo, a un primo piano sovrastante la rimessa delle diligenze di Grassine e dell'Impruneta. A primavera i bubboli di cui erano carichi i cavalli richiamavano Ersilia alla finestra. Ella si affacciava tra i due vasi di geranio con in braccio il bambino. C'era sempre qualcuna di quelle donne che venivano dalla campagna coi cestini delle uova. Se ne poteva comprare risparmiando sul prezzo mezza dozzina. L'imperiale della diligenza arrivava quasi all'altezza del davanzale. Il conducente girava la martinicca e le dava il suo saluto. Sulla casa di rimpetto batteva il sole. Era festa ogni mattina. Metello ora lavorava verso il campo di Marte, ora un nuovo padiglione in muratura delle fonderie, dalle parti del Pignone. Ella lo seguiva col pensiero. Passava, diciamo, intera la giornata in attesa che egli tornasse dal lavoro, e non le mancavano le nuove amicizie del secondo e del terzo piano, della moglie del mosaicista, più giovane di lei e facile di parlantina, signora Salani, sposina, e anche lei così giovane, eppure quante ne ha passate. Da prima era sembrato difficile, ma poi, spartendo il centesimo, volendosi bene, erano trascorsi quasi 3 anni, e pareva ieri che Metello l'aspettava fuori l'ospedale senza averla avvisata del suo ritorno. Ora il bambino aveva 20 mesi, aveva messo i denti, s'era staccato, incominciava a parlare, e siccome somigliava a lei più che a Metello, aveva i suoi occhi e il suo taglio di naso, v'era qualcosa del nonno in quel visino. Se la felicità è di questo mondo, come si dice, Ersilia era felice. A momenti mi creda, tutto quello che le ho raccontato mi sembra una bugia. Come l'acqua d'Arno, non è vero? È aprile, sono sbocciati i gerani, il fiume è placido e verde, riappaiono i canottieri e gli artigiani di Borgo San Jacopo spalancano i finestroni. Si fatica a ricordarsi dei giorni della piena, quando la città era stata tutta in allarme, siccome sui piloni di Ponte Vecchio si erano infrante le spie e in porticciola l'acqua era salita fino a lambire l'ultimo scalino. Quei 3 anni, un baleno. In San Frediano Metello aveva subito trovato degli amici, a cominciare dal momento che erano entrati in via del Leone. C'erano Annita e Giannotto Gemignani, anche lui tornato da pochi giorni, l'avevano mandata a Lipari invece che a Lampedusa. Annita chiese a Metello dove si fossero conosciuti. Era sembrata una di quelle cose che si dicono. Poi, cercando nella memoria, se ne erano ricordati. Nel 94-95, in una sera d'agitazioni, Metello l'aveva fermata all'uscita della manifattura e le aveva chiesto un appuntamento, che non avevo ottenuto, è naturale. Ora ne ridevano insieme ogni volta che ci cadeva il discorso. Lui e Giannotto erano diventati inseparabili. Pensavano allo stesso modo e facevano lo stesso mestiere. Soltanto il caso li aveva portati a lavorare sotto un diverso padrone. Il giorno della Befana, durante il desinare, Metello gli aveva detto che nel mio passato ci fosse stata questa tua amica Annita, non l'avrei mai immaginato. Da allora, ella aveva capito che per buono, onesto e leale che fosse, nel suo carattere anche la vanità aveva la sua parte. Non le dispiaceva. Era il suo uomo ormai e lei lo amava. Adesso, come 3 anni prima, la fortuna gli aveva assistiti. Metello era stato riassunto dall'ingegner Badolati. Il lavoro non era più mancato. Ora costruivano i mulini biondi, ora le case dei ferrovieri, ora le nuove fonderie. Certe settimane egli portava a casa anche 25 lire, e allorché era rimasta incinta di Libero, Metello l'aveva costretta a licenziarsi dall'ospedale. Il suo salario, assistendogli la salute, gli bastava. Si trattava di sapersi destreggiare e di ricordarsi dello zero da cui erano partiti. Nelle ore perse della giornata, portando il bambino a prendere sole, essa lavorava la treccia, e in capo al mese, se arrivava a 100 e 100 metri, le davano uno scudo. Allora nemmeno ci si accorgeva della rata da versare all'usuraia di Camaldoli, la signora Lorena. Erano serviti quei prestiti per affittare e metter su casa, e poi per il parto, e infine il più recente, che aveva riportato il debito alla sua cifra iniziale, e malgrado che Metello l'avesse contrastata, per completare l'arredamento. Ora, oltre al cassettone, ci avevano l'armadio, il lume con la palla e un lavamano per Metello e uno per sé. «Se non si fa così, non si può certo mettere qualcosa da parte coi salari. Ma le piglia molto di interesse la strozzina?» Anche in questo quartiere nuovo per lei, dove abitava gente magari un poco più civile, era lo stesso Sanfrediano. Da una finestra all'altra non c'erano segreti. Quando i primi mesi Metello era ancora sotto ammonizione, nessuno sembrò infastidito di averli come vicini. «È per la politica.» «Oh, ne so anch'io qualcosa», diceva la moglie del mosaicista. «Ho avuto uno zio che ha fatto versare più lacrime a mia madre...» Si capiva che non aveva significato nulla per lei codesto zio, e che era una ragazza soltanto un po' vanesi a cui piaceva parlare. Ma anche a Elsie piaceva parlare e farsi delle amicizie, da finestra a finestra, sui pianerottoli delle scale, ora che aveva lasciato Sanfrediano. E Ida Lombardi, anche più giovane di lei, sposata da poco, presto era diventata sua amica. Si scambiavano delle visite, e una domenica erano andati insieme al mattinè del Teatro Pagliano, a vedere il ballo Excelsior, loro e i mariti. Dopo il quadro che esaltava il traforo del Sempione, Metello non la smetteva più d'applaudire, nemmeno l'avessero pagato. Si trascinò dietro la platea, i palchi e il loggione dove stavano, e proprio perché ci aveva i calli non si spellò le mani. «Sono le sue idee», si confidava Ersilia, «e uomini come Metello, se non fossero così, non sarebbero loro. Mi ci aveva abituato mio padre. Metello è più posato, non è anarchico, è socialista». «Ma già, lei cosa ne può capire?» E siamo dovuti venir via per questo da Sanfrediano, siccome Metello ci si era fatto subito degli amici e il delegato gli aveva proibito di frequentarli, specie Giannotto. Fanno lo stesso mestiere, si sono conosciute alle murate, ma con la moglie di Giannotto, con Annita, siamo amiche da sempre. Così finiva che la sera ci si doveva chiudere in casa come le galline. Metello non voleva che il delegato lo prendesse a noia, era decisa a togliersi di dosso l'ammonizione il più presto possibile. E questo dipende dalla buona condotta, ma soprattutto dai rapporti che il delegato manda alla questura. Non gli faceva che ripetere: «Perché non cambi aria, Salani? Non ci sei mica nato in Sanfrediano. Vai ad abitare in un altro quartiere, rompi con certe amicizie e mi alleggerisci un po' di lavoro». Le amicizie non si possono rompere, ma cambiar casa sì. E siccome prima o poi ci doveva togliere il disturbo a mia madre, e mi stava per nascere il bambino, e ci si decise. Ida sospirava. Era anche lei un'amica ormai, a suo modo, e bisognava compatirla a volte, per quello che diceva. «D'accordo», diceva, «ma chi gliel'ha fatto fare al signor Metello di sporcarsi la fedina? Un uomo così distinto! Lei mica si ingelosisce, vero? Così distinto che la domenica non sembra nemmeno un muratore. Si provi a dirglielo, ci tiene tanto alla sua professione. E poi sa com'è, queste idee che gli uomini sono tutti uguali, che tutti si ha il diritto di lavorare e di non essere sfruttati, e quando sono entrate nel sangue, tirano come il sangue proprio. Ma non sono le stesse cose che dice il prete al Vangelo?» Ida spalancava gli occhioni neri, era bruna come Ersilia. Aveva 15 anni meno del marito, che era un maestro nel suo mestiere, e tuttavia, per giovane che fosse, Ida lo comandava a bacchetta, gli aveva messo la sottana. Cose queste che più difficilmente accadevano in Sanfrediano. Ora Ersilia si recava nel suo rione di Sanfrediano una volta alla settimana a trovare la madre, che non voleva staccarsi da quelle strade. «Ho camminato anche troppo nella mia vita, e passar l'Arno è sempre un'avventura», diceva. Continuava il suo lavoro di seggiolaia e custodiva la casa in attesa del figlio, partito da appena pochi mesi per scontare la sua ferma di soldato. Ersilia gli scriveva sotto dettatura della madre, e gli mandava ora 6, ora 10 soldi. Ora una lira, comunque sempre la metà del suo guadagno di trecciaiola. È come se egli fosse al domicilio coatto, tale e quale. Quindi si incontrava con Annita, con Lidia Martini, rimasta vedova di Pisacane, portava la rata alla strozzina e di uscio in uscio non le mancavano le occasioni per rammaricarsi o per gioire. Fioravanti, il tornitore, era morta a Lampedusa. L'amnistia, che pure gli aveva risparmiato 10 dei 13 anni della pena, era arrivata tardi. L'artrite l'aveva preceduta. E ormai da un anno era morta Miranda, diversamente certo da come avrebbe desiderato. Essa sognava le barricate, a capo del letto, invece di un'immagine sacra, teneva il ritratto della Vergine Rossa di Parigi. Si era spenta in una corsia degli innocenti, dando alla luce 2 creature. Dopo il parto, già di per sé laborioso, si diceva che quei medici l'avessero sbranata. Era sopraggiunta l'infezione. Guido Ciappi aveva dato ai 2 gemelli il proprio nome e gli pagava la baglia. Ghighe e Antonietta Monsani erano espatriati in America, clandestini, in cerca di lavoro e di avventure. E il caffè di Piazza Piattellina, battendo sul tempo addirittura il bottegone, aveva inaugurato la luce elettrica. Questo succedeva l'inverno del 1901. Giusto nei giorni in cui il Ciappi si era unito con Lidia Martini, da 3 anni vedova, sola con la piccola Iole, uno splendore di biondo, andava di già a scuola e avevano ritirato in famiglia i bambini di Miranda. E poi era venuta la primavera. Era andata male la colombina del Sabato Santo, era uscito all'otto un ambo popolare ed era tornato dal Belgio Olindo Tinai, povero se possibile più di quando era partito coi suoi 20 anni prima. Metello gli aveva aperto le braccia e lo considerava un fratello, come del resto, in certo senso, egli era. Ora, in San Frediano, era venuta l'estate, era morta la vedova di Fioravanti, e ad Annita e Giannotto era nato il 2° figliolo. Siamo come una famiglia, capisce Ida? Si sa tutto di tutti, si vive più che non si viva qui, in mezzo alla strada, non ci possono essere dei segreti. Già, già, d'accordo, ripeteva la bellidina, ma lei, mi creda, non sembra di San Frediano, è così giovane, così bella, così cortese. E il signor Metello? Lui vabbè che non c'è nato, ma pare non ci abbia mai nemmeno messo piede, un uomo così distinto. Così per bene. Il sole sui ponti gli cuoceva il viso, i suoi 30 anni ci aggiungevano vigore. Ora portava i baffi, lunghi ma non arricciolati, non è da muratori, ci vuole la pomata e ci si impasta la calcina. I capelli leggermente diradatisi sulle tempie e delle rughe sulla fronte e agli angoli del naso sembravano accentuare la sua maturità e la sua salute. Egli era un uomo nella piena fioritura. Ida lo divorava con gli occhi, abbassandoli discreta tutte le volte che lui la guardava o che Ersilia li guardava, ma né Metello né Ersilia sembravano accorgersene. Ersilia non aveva motivo di essere gelosa, e in quanto a Metello, egli riconosceva le grazie di Ida, la sua freschezza e il profumo che essa dispensava a starle vicino, ma non l'aveva troppo in simpatia. Piuttosto che gradirla, la sopportava, siccome Ersilia l'aveva per amica, ed era una buona ragazza, dopo tutto, non poteva fare a meno di convenirne. Non usciva mai sola. La sua casa era uno specchio, anche perché aveva una donna a mezzo servizio che l'aiutava. Spesso nel pomeriggio scendeva dal loro Salani e si metteva a giocare con Libero ore e ore. Gli aveva portato un vaso grande di marmellata di fichi fatta con le sue mani e promesso un cavallo a dondolo di cui avrebbe scritto alla Befana. Si faceva chiamare Tata dal bambino, che sapeva di già parlare, avrebbe potuto chiamarla col suo nome zia se le fosse piaciuto. Anche da qualche tempo aveva imparato a confezionare i fiori di carta. Ersilia le aveva insegnato e non per venderli, ma per divertimento, ce n'era piena la casa. E proprio questo suo eccesso di femminilità, o meglio, l'ostentazione che Ida metteva in ogni suo atto, e come si muoveva e come parlava, le cose che diceva, da non stare né in cielo né in terra, o tutt'al più sulla bocca di un neonato, quei suoi gesti di cucciolo, di gattina, infastidivano Metello. Una volta le aveva detto, «Mi leva una curiosità, Ida. Lei parla e si comporta così, tutta rosa e miele, perché le viene naturale, oppure è una cosa studiata?» Ida era arrossita ed era intervenuta Ersilia. Non ci faccia caso, Metello sarà anche distinto, ma deve ancora imparare l'educazione. Ida gli aveva sorriso. Beh, vuol dire che lo considero un complimento, gli aveva steso la mano. Amici come prima? E più infastidiva Metello la dabbenaggine, la condiscendenza, la sottomissione di cui la faceva oggetto suo marito. Cesare era un uomo come lui, aveva qualche anno di più, toccavi 35, allora un po' d'energia. La spendeva tutta nel prendere le pietruzze delle tessere e nel battere col martellino sul telaio? Non beveva fuori dai pasti, fumava il sigaro la domenica perché non lavorava. Era un pezzo d'uomo alto quasi quanto Metello, ma dalle spalle rientrate per via del suo mestiere e la faccia spenta di un impiegato. Tolto dalla moglie, che del resto era lì, e di ciò che ad essa interessava non si sapeva con lui di che parlare. «È un artigiano», gli diceva Ersilia, quando erano soli e ci capitava il discorso. «Non è come te, ha avuto un'altra educazione, si contenta di quello che ha». E non ha certo meno di noi. Ha un lavoratorio e due lavoranti sotto di sé. Questo gli permette di vivere senza preoccupazioni e di pensare soltanto a sua moglie e al lavoro. Sembra tu non lo stimi, perché non hai idee per il capo, sorrideva scuotendo la testa. È un artigiano, concludeva. Ma ne conosco anch'io d'artigiani, e non ho mai inteso dire che gli sia proibito il vino e di avere delle opinioni. Non si tratta di essere o no artigiano, si tratta di averci o non averci del sangue nelle vene. Il discorso tornava così a cadere su Ida. E Metello diceva, sai che cosa le ci vorrebbe? Qualche bella labbrata che la scuotesse e poi dirle zitta, eh! E ridevano insieme, ed Ersilia portava la sua sedia accanto a quella di Metello e passava il proprio braccio attorno al suo. Egli finiva il suo sigaro e il suo bicchiere di vino. Ella aveva riordinato la cucina e gli diceva, come sei lesta a tirare le labbrate, ma a chi le tiri? Lui le misurava uno schiaffo che diventava una carezza e si abbracciavano. Entravano in camera sulla punta dei piedi, abbassando la fiammella del lume per non infastidire il bambino che dormiva nel loro stesso letto su un lato, rincalzato dai guanciali e riparato dalla spalliera di una sedia, e si coricavano, e lui la prendeva, in silenzio, come quella notte di febbraio 2 mesi dopo il suo ritorno. Erano stati allo spettacolo dello stenterello Niccoli, avevano tirati i coriandoli e le saette di carta sulla platea. Era la notte del martedì grasso. Avevano bevuto il punch al mandarino al caffè di Piazza Piattellina. Poi si erano messi a ballare con gli altri in mezzo alla piazza. C'era quella scatenata di Miranda che si era legata le sottane alla cinta e faceva il salto mortale. Erano passati dei signori in carrozza vestiti da Pierrot e da Pierrette e tutti ubriachi. Il cavallo andava a gran carriera come fosse infuriato. Nessuno li riuscì a fermare. Anche quello che stava a cassetta era mascherato. Lanciarono dei confetti e per poco Miranda non rimase investita dal legno che come era apparso da Piazza del Carmine. Sparì dietro le mura. Era una notte che non faceva freddo. C'era la luna. Rientrarono eccitati per il ballo e lei anche per il punch, a cui ne era seguito un secondo offerto da Giannotto Gemignani. In casa la mamma dormiva. Suo fratello era di già andato al forno. Le due stanze erano lontane l'una dall'altra. Le divideva il corridoio e in mezzo c'era la cucina. Chiusero la porta sulle scale. Da 2 mesi che Metello era loro ospite, ogni sera si erano salutati a metà del corridoio. Non ci fu bisogno di dirsi nulla. Metello la spingeva dolcemente alle spalle. E lei entrò per prima nella sua camera e si lasciò cadere sul lettino mentre lui la baciava. Dalla strada si sentì Miranda e gli altri amici che passavano. Miranda gridò, «Popolo ciuco, impazza il carnevale!» Poi il silenzio, e per la prima volta Metello la prese, vergine e piena di desiderio. E ancora adesso, che avevano salito le scale del municipio, avevano una casa tutta per sé, gli era nato il bambino, era con la stessa trepidazione, lo stesso trasporto, la stessa gioia di quella prima volta che essa gli si dava quando lui la cercava. E con la stessa dolcissima attenzione di allora, la stessa irruenza, lo stesso amoroso vigore egli la possedeva. Nei loro due corpi, che aderivano l'uno all'altro, sudati, l'affetto che li univa trovava la sua esaltazione, la sua sempre rinnovata e tangibile più certa ragione di esistere e di durare. Metello da allora, così come non aveva guardato altre donne, nemmeno le aveva desiderate. Ersilia aveva 23 anni ed era sua moglie. Era bella e lo compiva. La snellezza del suo corpo, appena un poco appesantito dopo la nascita del bambino, favoriva questo durare della gioventù in ogni sua parte, nella freschezza del volto, nel candore del seno. La cura, il rispetto che essa aveva della propria persona, la semplicità e insieme la dissimulata civetteria che metteva nell'acconciarsi con un nulla, le bastava una spilla, un nastro, 2 buccole di corallo per rendersi ogni volta attraente e nuova. E la fermezza, l'equilibrio del suo carattere. Il suo disinvolto coraggio nell'affrontare i momenti difficili, il suo modo di mandare avanti la casa, liberandolo da ogni querimonia, gliela rendevano sempre più preziosa. Completava la sua domestica felicità la presenza del bambino. Codesta sera, prima di addormentarsi, Ersilia gli chiese, «È domenica domattina, a che ora ti sveglio?» «Basta alle 8», egli disse. «La riunione a Monterivecchi è per le 10». Al mattino ella si era già alzata. Metello aperse gli occhi e vide Libero desto. Lo sollevò dall'altro capo del letto dove si trovava e si mise a giocare con lui. Gli batteva fronte contro fronte e il bambino rideva. Ersilia entrò e gli chiese: «Avete calcolato tutto per questo sciopero, vi conviene?» «Tu che dici?» «Dico di sì, se vi conviene.» Ella pensava che avrebbe dovuto finire in fretta gli altri 100 metri di treccia che le rimanevano da fare. Siccome le 5 lire sarebbero state necessarie più di sempre, era facile prevederlo. L'anno prima erano scesi in sciopero e avevano resistito 2 settimane. Era di nuovo maggio e ci si riprovavano. Egli disse: «Ora resta da vedere se la maggioranza ci sta. Bisogna andare fino in fondo questa volta.» Aggiunse, quasi per giustificarsi, sembrava: «Noi, e si può anche tirare avanti, ma sai quanti sono nel nostro cantiere che arrivano a 25 lire la settimana? 10 su 50. Gli altri non toccano le 20 lire e hanno tutti anche 3 o 4 figlioli. Ora lavoro c'è, non è più il momento in cui ci posso minacciare la disoccupazione.» Ma fu lei, Ersilia, a sollecitarlo perché si vestisse e a dirgli: «Noi si può tirare avanti, dici sul serio? Ho da pagare la rata alla strozzina, ho 1 lira e 10 di debito arretrato col droghiere e non siamo ancora riusciti a trovare il modo di comprare la culla al bambino. Tra poco ha 2 anni, sarebbe l'ora di toglierlo dal nostro letto, non sei di questo parere?» Egli si alzò, aveva in collo il bambino che si sporse verso la madre e con un braccio si tenne a lei e con un braccio si tenne al padre. «Mamma, babbo, libellino!» sillabò. Essi lo ricopersero di baci e si baciarono. Erano caduti tutti e 3 sul letto e ridevano come 3 bambini. Qualcuno chiese permesso alla porta sulle scale rimasta socchiusa. Entrò Olindo Tinai, venuto a prendere Metello. Ma per non sentirsi soli capita che non si riesce più a non piangere, a non chiedersi perché. C'è una ragione per vivere, l'altra è 4, o per morire. Non si sta chiusi in una stanza, immaginando di partire per non sentirsi soli, per non sentirsi soli. Metello aveva ricevuto le notizie e i saluti dei Tinai l'ultima volta in occasione delle ricorrenze del 95. Si trovava a Napoli e di lì a poco era stato congedato. Gli aveva ancora scritti in seguito, ed anche loro a lui sembrava, certo in quei tempi egli aveva cambiato spesso indirizzo, dallo stambugio di Pestelli alla baracca del cantiere. Poi i fili si erano spezzati, ma uno sempre ne resiste, quello via via più sottile ma di refe della memoria, che quando il bisogno preme diventa un canapo, una fune. 2 mesi fa Olindo aveva bussato in via dell'Olivo e, fattosi riconoscere da Ersilia e saputo dove Metello lavorava, non si era nemmeno fermato, era andata ad aspettarla all'uscita del cantiere. E dopo la sorpresa, gli abbracci e la bevuta, le notizie che gli aveva dato non erano state di consolazione. La miniera, dove seguendo l'esempio del padre loro 4 fratelli erano scesi uno dopo l'altro, li aveva messi in ginocchio quasi, quando non li aveva uccisi. Dapprima babbo Eugenio, ma non lavorava già più in miniera, dopo qualche anno stava perdendo la vista, faceva il bracciante da quei contadini. È una terra avara, nera, peggio della nostra di Lincine, magari. Si colpì tra cosce e inguine con un pennato, sembrava una cosa da nulla, ma la ferita si infettò, ebbe un'agonia di 3 giorni. Nel delirio parlava di Lincine, dava la colpa al guardia ad averlo ferito. Fece anche il nome di Metello prima di morire. E poi Vittorio, che era rimasto sepolto da uno scoppio di grisù la settimana di Pasqua del 98 insieme a 6 compagni. Laggiù sono cose normali, se non è un disastro in grande non appare neanche sui giornali. Vittorio aveva 23 anni e si era appena sposato. Era anche lei figlia di italiani, emigranti e minatori, una veneta, e si era risposata con Carlo, l'altro fratello, il penultimo. Ci correvano 2 anni tra lui e Vittorio. Sai, era rimasta con noi, lei e il bambino. Era una donna, era sempre per casa. Erano 2 bocche che in un modo o nell'altro ci dovevano sfamare. Ora hanno altri 2 figlioli. Sono rimasta a Charleroi, tengono con sé la mamma. E c'era Ascanio. Metello lo ricordava col sottanino e doveva avere adesso anche lui 20 anni. Morto Vittorio, non ne aveva voluto più sapere di miniera, se n'era andato, e di famiglia e dal Belgio. Scriveva di tanto in tanto, ultimamente da Pau, gira gira, anche se non lo scriveva, doveva essere ridisceso in una miniera. Nelle sue lettere non si spiegava mai bene. Di tanto in tanto mandava 10 franchi alla mamma e da Pau aveva scritto per via delle carte, siccome voleva diventar francese. Era un passo che anche Vittorio e anche Carlo avevano di già fatto. Una volta naturalizzati, li guardavano con un altro occhio e li pagavano un po' meglio. Siamo partiti da Rincine per diventare chi belga, chi francese. Si fosse fatta almeno in cambio un po' di fortuna. C'era infine la sua storia. Io no, io sono rimasto italiano. E se le altre storie dei suoi fratelli e di suo padre erano semplici, tanto che non aveva bisogno di infittirle di particolari, la sua, in apparenza più complessa, era anche più semplice, in definitiva. Non aveva preso la nazionalità perché gliel'avevano rifiutata. Si era deciso per primo, ma capitò in un momento che quel governo aveva messo il fermo alle adozioni. E quando ci volle riprovare, il console lo sconsigliò, ricordandogli la patria. Erano i tempi di Adua e sembrava un tradimento. Se non mi fossi lasciati intenerire a quest'ora non sarei qui a chiederti. Metello, fammi piglià come mano vale, mettici una parola. Lavorava in miniera da 10 anni, si era sposata anche lui con un'italiana. E gli erano nati i primi 2 figlioli, quando durante una fuga di Grisù, non uno scoppio, una fuga, cose che capitano tutti i giorni. Cotesto giorno la maschera non funzionò, o lui se l'era calzata male. Respirò tanto gas prima di raggiungere l'altra galleria da crollare a terra come un cencio appena in salvo. Fu in sanatorio per 6 mesi, ne uscì coi polmoni rattoppati, ma gli riconobbero il diritto alla liquidazione. Una miscea, ma da un male sembrava nato un bene. Disponeva di un piccolo capitale. Di tornare in Italia, malgrado la mamma non facesse che sognar Rinci nell'onda come una prigioniera all'aria e il sole, non se lo proposero nemmeno. Cosa sarebbero tornate a fare? Ormai la loro vita era lì, ci avevano messo le radici. Questo era successo 3 anni prima. Coi soldi della liquidazione aveva preso in appalto un bettolino. Si cucinava la pasta asciutta, sai, i nostri minestroni, la ribollita, mi feci mandare il vino di contea, pagando, si intende, dalla zia. La sorella del babbo, te ne ricordi? È fattoressa, da un pezzo, hanno fatti 4 quattrini, lei e lo zio Ascanio. Al suo bettolino ci andavano anche i capisquadri e gli assistenti, e non soltanto gli italiani. Sembrava si cominciasse a vedere un po' di luce, ma che? Scopersero che quei minatori giocavano d'azzardo con le carte nel retrobottega, e gli venne ritirata la licenza. Per scampare il carcere dovè pagare una multa che si mangiò il capitale. Fu tutta invidia, una spiata, mi vollero rovinare, siccome non ammettono che un italiano possa salire più su di uno scalino. Tornare in miniera non poteva, non l'avrebbero ripreso e non glielo permetteva la salute. Intanto gli erano nati altri 2 figlioli. E cosa facevo? Dopo qualche mese non avevo più un franco, viveva alle spalle di Carlo e siamo 6 persone. Il ragazzo più grande ha 8 anni appena. Decise di rimpatriare. Sperava che a Rincine la zia li avrebbe sistemati ridandogli un po' di terra, se la sarebbero sentita di ricominciare da capo. Ma dubitando che la zia avrebbe risposto con un rifiuto, invece di scrivere gli erano capitati di sorpresa. Sul primo lo zio Ascanio ci voleva mettere in mano dei carabinieri. Già si era tornato in Italia col foglio di via. Poi ci hanno dato una stanza sul divieto della fattoria e si dorme tutti lì. Mia moglie, io e i figlioli. Mia moglie fa i servizi in fattoria. L'hanno costretta fin dal primo giorno a sfacchinare. Ma io, andare in giro a offrir le braccia, fare il parente povero e con la poca salute che ho. Dopo un mese non me la son più sentita. Ma il bisogno rimane. E siccome ho visto che tanti di Contea e di Londa sono tornati a lavorare a Firenze nei cantieri, aiutami, fammi fare una bella figura. Ho bisogno di lavorare. Anche la mamma mi si è raccomandata 100 volte prima che io partissi. Cerca Metello, vedrai se hai bisogno d'aiuto. Vi ho allevati con lo stesso latte. È un animo buono. Digli che lo vorrei tanto rivedere. Ti considera come un suo figliolo, come uno di noi. E in fondo, rimanendo qui, di tutti noi, tu sei stato più affortunato. E mentre andavano verso casa, la sera stessa che si erano rivisti dopo 15 anni o quasi, Olindo gli chiese: «Ma a Rincine non ci sei mai più tornato?» «Me ne è mancata l'occasione, e a dir la verità non ne ho mai avuta nostalgia. Ma lì tutti si ricordano di te, anche Cosetta. Tu di Cosetta te ne ricordi?» «Come no», disse Metello. «L'ho ancora qui», si toccò la gola. «Se è fatta bella grassa, tu la vedessi, è proprio una sposona, non le si addice più quel nome. Versi 20 anni si era chiusa in convento, ma poi figurati se non ci ripensò prima di prendere il velo. Scappò col figliolo del Procaccia, è con lui che si è sposata. Hanno 3 diligenze e 6 coppie di cavalli. A tutte è andata meglio che a me», ripeteva. Metello aveva parlato all'ingegner Badolati e la settimana successiva Olindo era stato assunto come manovale. Metello, tu hai la felicità in famiglia e un padrone che ti apprezza e t'ascolta malgrado le tue idee, ma lo meriti, te lo dico senza invidia. Così Olindo l'aveva ringraziato. Alessandro Benvenuti ha letto Metello di Vasco Pratolini. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it